piano. Di Enrico Ruggeri. Questa è una strana storia di calcio, per certi versi abituale, per certi versi emblematica e unica, perché stiamo parlando di un giocatore perfettamente inserito, insomma, nel mondo del calcio degli anni 60 e 70, che ha subito un destino veramente particolare. È un operaio del pallone, si direbbe oggi, era un centrocampista di quantità come Gattuso, come Furino, e il centrocampo, lo sapete, è una zona nella quale ci sono giocatori diversi, no? Ci sono i fuoriclasse, i Rivera, i Cruyff, i Beccalossi, e poi ci sono quelli che devono portare acqua al mulino, che recuperano palloni, che faticano, una vita da mediano, direbbe qualcuno. Ecco, questo era il classico mediano, con una vicenda personale e dei fatti molto umani che l'hanno destinato in parte all'oblio, nel ricordo. Io credo che Rivera sia stato il giocatore più forte del dopoguerra, magari in qualche occasione, non in qualche occasione, sempre dicono così che io giocavo e correvo per lui, però io credo che quando tu hai in campo un giocatore così, non c'è altro da fare che quando hai la palla gliela dai, insomma, ecco. La voce che avete sentito è quella del nostro protagonista di oggi, Giovanni Lodetti. E magari ci sarà qualche giovane che in questo momento non sa neanche di cosa io sto per parlare, mentre invece se parlassi di Gianni Rivera, insomma, voglio sperare che tutti saprebbero che cosa sto per dire. Eppure per 10 anni Lodetti ha diviso gioie e dolori con Rivera, e uno è esistito perché c'era l'altro, perché in qualche modo i grandi fantasisti hanno bisogno di qualcuno che corra per loro. Rivera e Lodetti sono stati entrambi colonne del Milan e anche della nazionale italiana in un periodo che viene ricordato spesso come calcio pulito, onesto, più semplice, fatto di calciatori non strapagati, con altri tipi di ambizioni. È vero, però sono anche vere altre cose che vi dirò sulle falle di quel sistema calcistico. Eh sì, perché la storia di Lodetti ci racconta qualcosa di diverso. Anche allora, quando non c'erano tutti quei soldi di mezzo, i soldi che ci sono oggi, anche allora non si guardava in faccia a nessuno. Giovanni Lodetti nasce nel 42 a Caselle Lurani, che è un paese tra le campagne di Lodi e di Pavia, siamo in piena seconda guerra mondiale, e quindi anche l'infanzia di Giovanni, come quella di tutti i suoi coetanei, è segnata dalla miseria. Tutti gli italiani di quella generazione sanno perfettamente di cosa sto parlando. La devastazione operata nei popolari quartieri, persino un cimitero è stato profanato dai bombardieri inglesi, un fabbricato dell'università, una scuola. La famiglia Lodetti fa fatica ad arrivare alla fine del mese, e lì in quelle realtà un grande aiuto per la crescita dei figli era la parrocchia, con il prete, i preti di una volta, e con l'oratorio, e il piccolo Giovanni va all'oratorio per giocare a calcio sul campo dietro la chiesa, campo come potete immaginare pieno di zolle, di buche, con i palloni consumati e con i ragazzi che giocano sotto lo sguardo attento del parroco del paese. Si chiama Don Giovanni delle Donne ed è il classico parroco che ama il Vangelo, che usa un pochino il campo di calcio per come dire, coinvolgere i ragazzi e portarli a catechismo, e quelli, anche quelli della mia generazione in questo caso, si ricordano benissimo il catechismo per poter giocare a pallone. Ma questo Don Giovanni in realtà è anche uno che di calcio ci capisce, intuisce per primo le potenzialità di quel ragazzino smilzo che corre, che non si stanca mai, e anche le squadre del circondario cominciano a notarlo e iniziano a farsi sotto per averlo. Il mio primo ingaggio me l'ero trovato con la Peio, una squadra di Milano. Quando sono andato a dirlo al parroco, il prete ha tirato un pugno sul tavolo che sembrava un tuono e disse: «Niente da fare, tu non vai da nessuna parte e resti qui, perché per te ho altri piani». Questi piani di cui sta parlando Don Giovanni sono piani a tinte rosso-nere, perché il parroco ha un asso nella manica che risponde al nome di Pietro Trapanelli, un dirigente del Milan, un suo amico. Per certi versi possiamo dire che questo parroco è il primo prete procuratore, naturalmente con tutta l'ingenuità che il ruolo di procuratore poteva avere in quegli anni. E poi c'è una festa patronale e con questa scusa il parroco invita Trapanelli a Caselle Lurani e gli mostra il suo giovane prodigio. Il piano funziona, Trapanelli ha l'occhio lungo e fissa subito un provino per Giovanni al Milan. E due mesi dopo quella festa patronale arriva il giorno del provino tanto atteso, provino con il Milan al campo Scarioni di Milano. È una tappa fondamentale per la carriera di quel ragazzino, di Giovanni Lodetti. Sarebbe facile per me dire che il ricordo più bello della mia vita da calciatore sia legato alle vittorie. Invece, quello che ricordo con più piacere è senza dubbio quello del provino alla Scarioni. Dal mio paese c'erano solo due corriere per Milano, una alle 6 del mattino e l'altra alle 12. Ho preso quella delle 6 per non rischiare, fermata a Piazzale Corvetto, poi la 93 fino a Lambrate e poi a piedi al campo. Ricordo che c'era un caldo della Madonna. Nessun genitore, nessun parente, solo il parroco che mi aveva accompagnato. Una volta arrivati, il prete mi disse semplicemente: «Giovanni, vedi di farmi fare bella figura». E lui non delude il suo parroco, insomma il Milan è convinto e decide di tesserare questo 17enne per inserirlo nelle giovanili. Negli anni 50 non ci sono ancora i procuratori, gli agenti, non ci sono neanche per i grandi professionisti, quindi il Milan per avere Lodetti deve trattare direttamente con Don Giovanni e oltre ad essere il parroco è il presidente della squadra dell'oratorio. La trattativa non dura molto. 100.000 lire, una nuova fornitura di maglie per la squadra della Chiesa. Questo è il costo che il Milan paga per avere uno dei più grandi centrocampisti di quel decennio. Sì, Lodetti diventa un giocatore del Milan, entra nel vivaio rossonero. È il primo piccolo passo per realizzare il suo sogno di giocare presto con i grandi. E in quegli anni, ogni volta che la squadra vince, la squadra maggiore, la squadra dei grandi, c'è il capitano Cesare Maldini che distribuisce il premio partita agli altri giocatori. E Lodetti si ricorda bene di quegli attimi, guarda tutti con rispetto e racconta così quel momento visto con gli occhi di un ragazzino del vivaio. Martedì dividevano il premio di partita e noi ragazzi guardavamo e osservavamo e naturalmente eravamo anche desiderosi e compiaciuti, o prima o dopo capiterà anche a noi. Lui infatti si gira e un giorno mi fa: te vedare che capiterà anche a te o prima o dopo. E così è stato. Nell'agosto del 1961 il Milan ha il suo colpo d'ala perché chiama a allenare la squadra Nereo Rocco, soprannominato El Parón. È uno cauto Rocco, conservatore, si affida ai senatori del gruppo e si comporta come un padre con loro. Crea una cosiddetta commissione interna, che è un gruppo di fedelissimi con cui confrontarsi. E il sogno di Lodetti ovviamente è di entrare nella prima squadra, ma non è così semplice. Prima bisogna guadagnarsi gradualmente la fiducia della allenatore, anche perché Rocco ha un modo tutto suo per testare le qualità dei giovani atleti. Giovanni lo sperimenta sulla sua pelle. Per essere ben certo della loro solidità morale, una volta prelevati dalla cuccia, Rocco mandava in campo i suoi giovani con il contagocce. Una partita sì e quattro no. «Ma perché, signor Rocco? Ho giocato bene, son piaciuto». «Taci, mona!» rispondeva lui. E a forza di «taci, mona» ha tirato fuori una schiera di giocatori dal carattere coriaceo, come Pelagalli, Noletti, Trapattoni, Salvatore, Alfieri, Ferrario, Trebbi. Entravamo in campo motivati per dimostrare soprattutto a lui la giustezza della riconferma. Una domenica ero seduto sulla circolare di Piazzale Lotto, semivuota dopo un Milan-Bari. Mi sentivo il re del mondo. Avevo giocato in prima squadra dal primo minuto. e avevo segnato un gol di testa. Rocco mi aveva sorriso, mi aveva definitivamente confermato che ero da Milan. L'esordio in Serie A di Lodetti è dell'aprile del 62, a campionato quasi finito. A Ferrara si gioca Spal Milan e peraltro i rossoneri il campionato lo hanno già vinto e quindi si possono anche fare dei primi esperimenti. E poi c'è il numero 8 del Milan di quegli anni, il brasiliano Dino Sani, che si infortuna e Rocco chiama Giovanni a rapporto e gli dice: senti Lodetti, oggi abbiamo deciso di diventare matti, ti facciamo giocare e poi arrangiati. Il Milan vincerà 3-0 e lui per la prima volta incasserà quel premio partita che aveva sempre visto dividersi dagli altri. Il vero shock è stato dopo il mio esordio in A. Il martedì successivo all'Arena Maldini mi mette in mano il mio primo premio partita, 100.000 lire appunto, quindi 200.000 per me che ero giovane, 180. 18 fogli rosa, grandi come mezzo tovagliolo. Per paura che in tram me li rubassero, sono andato a piedi dall'Arena al Corvetto e prima di cena li ho consegnati a mio padre, che guadagnava 45.000 lire al mese. Li ha presi, li ha contati, lisciandoli sul tavolo, e dopo il sesto mia mamma già piangeva. E alla fine papà mi ha detto: «Bravo, Giovanni!» e se li è messi in tasca. Un po' ci sono rimasto male. Speravo che almeno uno me lo lasciasse, ma mi è passata subito. E l'estate seguente Lodetti è aggregato alla prima squadra, al ritiro estivo del Milan sull'altopiano di Asiago, e in quell'occasione gli viene proposto di firmare il primo vero contratto da calciatore professionista. Con Rocco però non è niente di semplice neanche mettere la firma su un pezzo di carta. Gipoviani era un personaggio burbero molto distaccato dalla squadra, ma sicuramente con una personalità che non ho conosciuto a nessun altro. Mi ricordo che alla prima occasione del mio primo contratto lui e Rocco mi hanno chiamato per firmare il contratto. Io chiesi allora 3 milioni di lire, no? E lui mi fa: guarda, 3 milioni li devi dare tu a me e a noi che ti facciamo giocare. Se ti va bene te ne diamo la metà, se no domani mattina parte il pullman dell'autostradale da Asiago che va a Piazza Castello Milano, te lo prendi. Ecco, a quel punto lì mi sono spaventato, gli ho detto di sì e sono uscito. Insomma, una trattativa particolare si usava in quegli anni e Lodetti ormai è un giocatore della prima squadra, anche se scende raramente in campo. Questo è il metodo di Rocco, lui lo sa. Rocco vuole salvaguardare i giovani aggregandoli con molto gradualismo. Però c'è una svolta che è vicina: 21 ottobre 62 a San Siro si gioca Milan-Inter. Rocco consegna a Lodetti la maglia numero 7. È una sorpresa per tutti, anche per lui che mai si sarebbe immaginato in campo titolare contro l'Inter nel derby. E il debutto è clamoroso e in quella stagione lui continua però a giocare poco, però ha l'onore di assistere alla sua prima finale, alla prima finale di Coppa dei Campioni della carriera. Si gioca a Londra, Milan-Benfica, Wembley, 50.000 spettatori, ve l'ho già raccontata questa mitica finale, i portoghesi che hanno in attacco col numero 10 la loro perla nera Eusebio, fortissimo, velocissimo, infallibile. Eusebio porta in vantaggio il Benfica nel primo tempo e poi nella ripresa José Altafini segnerà una doppietta che ribalterà il risultato, portando il Milan a sollevare la coppa con le grandi orecchie. Il Milan è campione d'Europa per la prima volta nella sua storia. Negli anni successivi alla vittoria della Coppa dei Campioni il Milan non riesce a ripetersi, intanto è nato anche l'astro dell'Inter di Elenio Herrera, ma poi c'è Rocco che va al Torino, la società comincia a vivere situazioni turbolente, prima in mano a Riva, Felice Riva, che poi scapperà in Libano, poi in mano a Carraro. Lodetti però sta crescendo, questa situazione non gli impedirà di emergere, è diventato una colonna del Milan e arriva anche la prima chiamata in nazionale. È il 10 maggio del 64, gioca con la maglia azzurra in un amichevole che l'Italia vincerà 3-1 contro la Svizzera. gli anni dell'oratorio hanno insegnato a Lodetti che col lavoro duro si possono ottenere grandi risultati. Lui è sempre lì a testa bassa, suda sette camicie per dimostrare di essere uno dei migliori, è un ragazzo serio e disciplinato, tutto il contrario di quelli che vediamo oggi con i tatuaggi e le creste, ma ha delle qualità, ha delle grandi qualità e conquista un posto fisso nel Milan e anche nella nazionale. Il falco e il gabbiano. Vi sto raccontando la storia di Giovanni Lodetti, un calciatore venuto dal basso, cresciuto in una squadra dell'oratorio, nelle campagne tra Lodi e Pavia, un ragazzo casa, chiesa e pallone, diventerà uno dei più grandi centrocampisti e andrà incontro a un destino particolare, non felicissimo, emblematico per la storia di quel calcio. Nato con il parroco del suo paese che lo segnala al Milan, con un tesseramento nel Milan di Rocco e con Giovanni che diventa una delle colonne di quel Milan. E sono anni d'oro sia dentro che fuori dal campo. Nel 67 si sposa con Rita, una ragazza conosciuta durante una serata con gli amici, lui l'aveva incrociata davanti a un jukebox e si erano guardati mentre risuonavano le note di Il Mondo di Jimmy Fontana, che diventerà la loro canzone nel 67. E intanto buone notizie in casa rossonera, perché torna Nereo Rocco e i rossoneri sono pronti a rivincere e a rivincere anche molto. Lodetti intanto è considerato uno dei giocatori più forti in circolazione, è un titolare inamovibile. Ho giocato tutte le partite senza mai star fuori una volta, ero titolare in ogni occasione e per me è stata, diciamo così, la consacrazione, ecco, quello di sentirsi importante in una squadra vincente. Stanno per arrivare i mondiali del 70 in Messico, quelli che Lodetti dovrebbe proprio giocare. E prima però c'è un altro appuntamento, ci sono gli europei in Italia e Lodetti fa parte della vittoriosa spedizione azzurra. Italia batte Jugoslavia 2-0, l'Italia è campione d'Europa. Ha vinto la nazionale azzurra la terza edizione della Coppa d'Europa per Nazioni. La stagione successiva è un'altra grande stagione per Lodetti e per il Milan, che gioca la finale della Coppa dei Campioni contro l'Ajax di Cruyff. È ancora un embrione del grande Ajax che arriverà di lì a poco, ma nel frattempo il Milan è molto più forte, si passeggia su quella che diventerà una delle squadre più rivoluzionarie della storia del calcio. È un trionfo, il Milan di Rocco supera agli olandesi per 4-1. Ancora una volta campioni, però per noi la vittoria è stata quella di Manchester. Io credo che lì noi sapevamo di essere già campioni d'Europa. Avessimo incontrato l'Ajax 2 anni dopo, forse perdavamo, però noi sapevamo che erano all'inizio e noi eravamo più forti. E con la vittoria della Coppa dei Campioni si va a giocare la finale di Coppa Intercontinentale contro gli argentini dell'Estudiantes de La Plata. È una sfida che rimarrà nei libri della storia del calcio, ve ne ho parlato più volte quando ho raccontato di Rocco, di Combin. Milan che vince 3-0 a San Siro, 2 gol di Sormani e rete proprio di Nestor Combin. E poi bisogna andare in Argentina e loro vogliono ribaltare il risultato e creano un clima per così dire incandescente, ma giusto per usare un eufemismo, dentro e fuori dal campo. C'è la bombonera, il passaggio sotto e come sali i gradini che arrivi allo stadio è scoperto. Noi veniamo fuori, ci sono arrivati di quelle tazze di caffè bollente addosso, una cosa impressionante. Ci mettiamo a fare la foto della squadra in mezzo al campo, arrivano loro, i giocatori delle Estudiantes, ognuno ha un pallone, ci arriva a 15 metri e ci tirano di quelle botte addosso, che metà basta. Quella partita verrà ricordata come una battaglia più che una partita di calcio. Il Milan perderà 2-1, Rivera, Conigliaro, Aguirre e Suarez, i tre marcatori. Però lì furono botte da orbi con uno dei bersagli preferiti, l'argentino del Milan, Nestor Combin, che verrà arrestato perché non aveva fatto il militare in Argentina. Ma insomma, il Milan perde 2-1, aveva vinto 3-0 all'andata, finalmente nella Coppa Intercontinentale si applica la differenza differenza reti, e quindi in un modo o nell'altro il Milan porta a casa con Bin sano e salvo, ma soprattutto porta a casa la Coppa Intercontinentale. Ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa dei Campioni e l'Intercontinentale, Lodetti è al top della carriera, l'obiettivo successivo non può essere che la Coppa del Mondo in Messico. E l'Italia si qualifica anche grazie al lavoro di Giovanni Lodetti, è presente in tutta la fase di qualificazione, insomma è sicuro di avere un posto in squadra anche al Mondiale, viene convocato da Valcareggi, si presenta al raduno, è pronto per mettere alla prova i suoi ormai proverbiali polmoni di acciaio anche in altura, sulle alture messicane. Prima di partire l'Italia fa tappa in Portogallo e per giocare un amichevole, l'allenatore della nazionale conferma a Pizzul che la rosa dei convocati per il mondiale è ormai definita. Poco prima della partenza per il Messico c'è un imprevisto. Anastasi è costretto a tornare in Italia per un'operazione delicata. Nata da uno scherzo, Anastasi si prendeva a gioco del massaggiatore Tre Soldi. Questo gli dà una botta nelle parti basse. Durante la notte Anastasi, che non chiude occhio dal dolore, i medici che si accorgono che un testicolo si è girato, e la mattina dopo Anastasi è già sotto ai ferri. E quindi, attenzione, qui comincia la complicazione. Quindi vanno in 21 in Messico. Vi ricordo che in quegli anni la comitiva doveva essere di 22 giocatori. La federazione manda in Messico due giocatori, Roberto Boninsegna dell'Inter e Pierino Prati del Milan, e così da 21 diventano 23. Insomma, uno di questi 23 dovrà rinunciare alla Coppa del Mondo. E sul volo per il Messico il giornalista Sandro Ciotti comincia a mettere una pulce nell'orecchio a Lodetti. Qualche giorno prima Ciotti mi chiese: se hanno chiamato uno del Milan e uno dell'Inter, non credi che per una questione di equilibri toccherà tornare a casa a uno del Milan o dell'Inter? Speriamo di no, gli ho risposto, anche perché dai test ero uno di quelli più resistenti all'altura. Eh sì, lui corre, è uno di quelli con i polmoni meglio preparati per resistere all'altura di Città del Messico. Insomma, la presenza di Lodetti sembra un fatto certo. E poi invece, una sera, viene preso da parte da Tre Soldi, dal massaggiatore della squadra. Quando Tre Soldi mi ha detto che mi volevano i capi, ho capito subito. State sereni, ho detto ai miei compagni, hanno scelto me. Salgo al piano di sopra e mi dicono: ci spiace, Lodetti, ma siamo costretti a tagliarti. Ma non ti preoccupare, chiama tua moglie. Per tutta la durata dei mondiali sarete nostri ospiti ad Acapulco e riceverai lo stesso premio che daremo agli altri. E così anche a Lodetti tocca un colpo basso come quello capitato ad Anastasi, però non è un colpo fisico, è un colpo probabilmente ancora più forte. Lui non sa spiegarsi il perché di questa esclusione, in effetti tutti in Italia si domandano perché proprio Lodetti. Per uno come lui, poi, che è stato educato al lavoro duro, al rispetto delle regole, è veramente troppo perdere il momento più importante, il mondiale, il momento più importante della sua carriera, senza capire il vero motivo. Lui perde le staffe, attacca i dirigenti federali, esce dalla stanza sbattendo la porta, naturalmente rifiuta quel invito un po' stucchevole e umiliante di dire rimani qua in vacanza, fai venire tua moglie. No, lui si chiude in casa, aspetta il primo volo per Milano e si rende conto di essere completamente solo, perché i suoi compagni del Milan non gli sono di nessun conforto, nessuno va a bussare alla sua porta, viene evitato. Sono scomparsi tutti tranne uno. L'unico che ha parole di conforto per Lodetti, e segnatevela bene questa, non è un suo compagno del Milan, ma è un suo avversario, uno che ha combattuto con lui tanti derby, è Giacinto Facchetti, che gli dice: Giovanni, se hai bisogno di qualsiasi cosa sai dove trovarmi, il mio numero di telefono ce l'hai, chiamami, non farti problemi. Giacinto Facchetti. Lodetti torna a Milano dalla moglie Rita, dal loro figlio nato da poco. Non avrebbe mai pensato che la sua correttezza e la sua lealtà potessero essere tradite in un modo così squallido, così terribile. Non ha capito le ragioni di quell'esclusione, però capisce che attorno a lui, a sua insaputa, sta succedendo qualcosa di strano. Torna in Italia, va in vacanza e sta già pensando al suo riscatto, alla prossima stagione col Milan, e non sa che la storia ha in serbo per lui un altro scherzo terribile. Il falco e il gabbiano. Giovanni Lodetti sta per sperimentare sulla sua pelle quanto la correttezza e la lealtà possano essere non sufficienti nella vita, soprattutto se attorno a te hai delle persone che non sono altrettanto corrette e leali. Siamo nell'estate del 1970 e i mondiali sono finiti. L'Italia, come sapete, è arrivata seconda, ha perso la finale con il Brasile, e intanto Carraro ha promesso a Lodetti e Rivera che il 71 sarà l'anno del grande riscatto per il Milan. Due persone, Lodetti e Rivera, che avevano avuto destini diversi in quel mondiale. Lodetti estromesso in maniera assurda, insomma c'era qualcosa sotto e poi scopriremo cosa. Rivera, che giocò un mondiale da protagonista, ma poi nella finale con il Brasile non viene schierato da Valcareggi, tranne che negli ultimi sei famosissimi minuti. Insomma, entrambi subiscono due tipi diversi di umiliazione. E Giovanni però è rassicurato dalle parole di Carraro, parte per la Versilia, va in vacanza con la famiglia, mentre in spiaggia lo chiamano al telefono, perché non c'erano ancora i cellulari. Arriva una telefonata dal Milan. Vado al mare in Versilia e dal bar della spiaggia mi dicono: c'è il Milan che ti vuole. È la segretaria della società che al telefono mi dice: Giovanni, ti passo il tuo nuovo presidente. Come? Non c'è più Carraro? Le rispondo io. No, sei tu che fai via, mi risponde la segretaria. Ti hanno venduto alla Samp. Ti passo il dottor Colantuoni, il tuo nuovo presidente. Mi è crollato il mondo addosso. Lodetti ha 28 anni, all'apice della sua carriera. In meno di un mese viene prima fatto fuori dalla nazionale e poi venduto a una squadra che lotta per la salvezza. E così Lodetti passa dal Milan alla Sampdoria in cambio di Romeo Benetti. E qui si comincia a dipanare il mistero. Eh sì, perché il Milan da mesi faceva la corte a Benetti, che è un astro nascente del centrocampo, e aveva offerto prima Malatrasi alla Sampdoria, poi Trapattoni, poi Sormani. I blucerchiati avevano risposto che l'affare si poteva fare solo se in cambio arrivava, diciamo, un'alternativa naturale a Benetti, cioè Lodetti, l'altro centrocampista. Il Milan accetta e quindi impone alla federazione, o almeno così si dice, non abbiamo le prove, però è abbastanza evidente il tutto, impone alla federazione di non far giocare Lodetti in Messico, perché se si fosse fatto male, o peggio, se avesse giocato un grande mondiale, l'affare con la Sampdoria sarebbe saltato. Meglio togliergli la Coppa del Mondo, meglio sacrificare la sua carriera in nome di un buon affare. Lodetti sta vivendo un brutto sogno. Appena gli viene comunicato il suo passaggio alla Sampdoria, tutti quelli del Milan si dimenticano di lui, giocatori, dirigenti, perfino il mister Rocco, che l'aveva trattato quasi come un figlio, non lo cerca, magari per una parola, per una spiegazione. E così Lodetti si trasferisce a Genova con addosso il suo fardello, il suo carico di delusione. Solo grazie al sostegno della moglie Rita si convince che si può ripartire da zero in una squadra che comunque è molto molto meno ambiziosa del suo Milan. Genova se la mette tutta per farlo sentire a suo agio, lo accoglie a braccia aperte, anche perché è arrivato alla Sampdoria anche un giocatore dall'Inter, si chiama Luisito Suarez, e quindi in qualche modo si ricompone quella coppia di polmoni e classe, Lodetti e Suarez invece che Lodetti e Rivera. Il suo allenatore è il leggendario Fulvio Bernardini, che gli consegnerà la fascia da capitano, che stringerà un rapporto di grande stima con Lodetti. Lodetti lo ricorda come uno degli allenatori più importanti della sua carriera. Il primo, quello del settore giovanile, Mario Malatesta, poi Nils Lidon, ma in primis Nereo Rocco, che con lui ho vinto sia prima che dopo tutto quello che c'era da vincere, e non dimentico naturalmente anche gli anni che ho fatto a Genova con Bernardini. Lodetti a Genova gioca 4 stagioni, gioca bene, frequenta anche un corso per allenatori, lo supera col massimo dei voti, pensa già a un futuro in panchina e tutto va liscio fino al 74, quando la Sampdoria assume Giulio Corsini, un tecnico che soffre la personalità di Lodetti, e la storia è piena di allenatori che non sopportano giocatori di grande caratura personale, e così Lodetti viene messo di nuovo nella lista delle cessioni. Lui ha 32 anni, chiede ai dirigenti della Sampdoria di poter andare a giocare vicino a casa per gli ultimi anni della sua carriera, per stare con la sua famiglia, ma per tutta risposta la Sampdoria lo manda dove? A Foggia, in Serie B, 800 km da casa. Meno male che almeno lui trova in panchina un suo vecchio amico Cesare Maldini. Con Cesare praticamente ho fatto tutta la trafila di un rapporto iniziato con le giovanili, ma in B a Novara finalmente almeno riesce a essere più vicino alla famiglia. Poi nel 78, a 36 anni, chiude la sua carriera, la chiude in Serie C. E prima di cambiare completamente vita, però, fa un ultimo tentativo per restare nel mondo del calcio e vince la sua ritrosia, il suo senso di dignità così forte, e fa una telefonata, la fa a Gianni Rivera, che nel frattempo è diventato vicepresidente del Milan. La risposta però è diversa da quello che si aspettava Lodetti dal suo vecchio compagno di squadra. Rivera è stato freddino. Mi ha detto che al momento non c'erano possibilità e che mi avrebbe fatto sapere. Dopo 3 mesi di silenzio ho saputo che il posto l'aveva dato a un altro. Mi spiace che non mi abbia chiamato. In quel momento non trovai né Rivera né il Milan. Nella mia vita la società mi è stata madre e talvolta anche matrigna. Da quel momento con Rivera ho chiuso senza rancore, ma anche senza una gran voglia di rivederlo o richiamarlo. Per la seconda volta della sua carriera il Milan gli sbatte la porta in faccia. Lodetti ha meno di 40 anni e senza un lavoro, ha una famiglia da mantenere. Per fortuna le origini umili di Lodetti in qualche modo gli vengono in soccorso. Lui si rimbocca le maniche e si trova un lavoro nell'azienda di un amico che si occupa di ceramica. Cambia vita, però non può dimenticare il suo passato e la sua grande passione. Nel bagagliaio della sua macchina c'è sempre un paio di scarpe da calcio, numero 42, pronte all'uso. Un sabato mattina vado a correre al parco di Trenno e mi imbatto in un gruppo di ragazzi che sta giocando la classica partitella tra amici. Mi fermo a guardarli. A una squadra manca un giocatore, stanno perdendo per 4-1. Così chiedo al portiere se posso entrare. Avranno avuto la metà dei miei anni. All'inizio mi dicono che sono vecchio, poi però accettano a mio rischio e pericolo. Entro e recuperiamo il risultato. Finisce 4-4. A fine partita i miei compagni mi dicono: ma non sei malaccio, ma come ti chiami? Non voglio svelare la mia vera identità e decido di presentarmi come Giovanni Ceramica, come scritto sul giubbotto della ditta. Da quella mattina ogni sabato alle 9:30 Giovanni Ceramica si presenta in campo con la borsa pronta come se stesse andando a giocarsi i mondiali, e la sua identità segreta incredibilmente resiste per qualche anno, fino a quando un signore a bordo campo comincia a sbracciarsi, a urlare il suo nome a gran voce. Lui cerca di zittirlo, il vecchio non cede, chiama a rapporto i ragazzi e inizia a snocciolare dati. Più di 200 partite con il Milan, un gol ogni 10 gare ufficiali. Poi gli scudetti, le coppe, perfino una intercontinentale. Urca, se me lo ricordo, la rete segnata nel derby del 1964 a Sarti. Che giocatore! Non l'ho mai visto perdere la testa, qualsiasi cosa succedesse in campo. I ragazzi rimangono sbalorditi, l'incantesimo è spezzato, hanno di fronte un calciatore che ha giocato a San Siro, al Bernabeu, che ha vinto campionati, campione d'Europa, campione del mondo, insomma Lodetti forse in qualche modo spezza un maleficio. In quel momento torna l'attenzione del pubblico, le trasmissioni sportive cominciano a chiamarlo in televisione, in radio per commentare il suo Milan, anche se metterei delle virgolette virgolette alla parola suo. E intanto lui non smette di giocare a calcio al parco di Trenno assieme ai suoi amici, ai ragazzi con i quali si diverte come se fosse ancora un giovanottello nell'oratorio di Casella Lurani. Finito l'anonimato, siamo andati avanti a giocare al parco di Trenno fino al 2007. A mia moglie dicevo che andavo a giocare a tennis, se no stava in pensiero. Le scarpe da calcio numero 42 coi tacchetti di gomma me le portavano gli amici direttamente al campo. Solo quando mi sono incrinato quattro costole, Rita ha capito che non andavo a giocare a tennis. Ci sono storie di persone che hanno saputo raggiungere grandi traguardi, forse persone alle quali a volte è mancato l'ultimo colpo d'ala decisivo, magari perché qualcuno te l'ha impedito, perché è vero che ci sono ali che si spiegano, ma è vero anche che c'è qualcuno che ogni tanto cerca di tagliare parti di queste ali. E così Lodetti, passato dalla finale con l'Estudiantes ai prati del parco di Trenno, in qualche modo ha sempre sbattuto le ali garantendosi la sua personale gloria. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi, a trovarci sui miei, sui nostri social. Se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese e Fabio Donolato, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Buongiorno.